ferma la città, si ferma anche l'umanità. Qualcosa di stupendo sta accadendo qua. Sempre tutto uguale, ma nell'aria c'è qualcosa che di gioia mi fa voglia di cantar. Un bimbo è qui. C'è anche chi non vuol vedere, dice nulla mai tra noi migliorerà. Tutto resta uguale, ma perché dovrei cambiare? Questa notte in pace tutto muterà. Un bimbo è qui.